Radio 24. Libera la voglia di fare. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Ed eccoci qua, cari ascoltatori di Radio 24, alle 10, 9 minuti e 2 secondi da una assolatissima Milano, dagli suoi studi. Ben tre compari dei conti della Belva sono qui in studio oggi con me. Affamatissimi, Carlo Alberto Carnevale Maffè. Renato Cifarelli. Ed è collegato con noi per Skype, è collegato, me l'ha confermato la regia, sì, il nostro ottimista capo mondiale, Mario Seminerio. Come stai, Mario? Buongiorno, io sto bene, grazie. Guarda, sembra studiato, sembra un attore, invece no. Invece è naturale, questo è il bello di Mario, capisci? Che gli viene così, spontaneo. Esattamente. Allora, cari ascoltatori, diciamo subito di che cosa si tratta in questa trasmissione, dopo ovviamente l'inizio che con il nostro Mario faremo un pochino il punto di qualche dato che è uscito nuovamente per aggiornarci delle tendenze italiane e del contesto internazionale, mentre è in corso il G7 tra gli arancini siciliani, ospite l'Italia, vediamo un pochino anche qualche vicenda che è accaduta in settimana, visto che c'è un aggiornamento, cari compari, che riguarda le due banche venete, che non mi stupisce per niente, ma non dico nulla, cari ascoltatori, però sappiate che uno dei temi della trasmissione dalle 10.30 alle 11 sarà con il professor Marco Onado, l'occasione è il suo libro dedicato alle banche, alla ricerca della banca perduta del Molino, vi dirò presentandolo perché secondo me è un libro fondamentale da leggere, ma quello che vi chiediamo subito è: cari detentori di obbligazioni delle due banche venete, senior comprese, lo avete capito che state andando alla conversione oppure no? Convertitevi e credete al burden sharing. Oppure pensate davvero che dopo aver perso tutti questi mesi per scoprire, guarda quello che c'è già scritto chiaro nella norma fin dal primo momento, oggi sia possibile una qualunque altra soluzione di quella? Chiamateci, ma questo è sicuramente uno dei temi di cui parliamo, ripeto, traendo spunto dal libro del professor Onado sulle banche, con un libro bellissimo. Dopodiché facciamo una riflessione su questo scontro che si è immediatamente riattizzato, avvampato, portando i giornali a dover titolare forse cade il governo, quello sui voucher. Sapete che sui voucher il governo è nato calando le braghe con la CGIL, perché non bisognava fare il referendum perché Renzi aveva paura, quindi il governo Gentiloni ha praticamente preso i quesiti su cui aveva raccolto le firme la CGIL sul lavoro e grazie al cielo la Corte Costituzionale aveva fatto cadere quello sull'articolo 18, se no veniva ripristinato anche l'articolo 18, ma quello sui voucher ha portato immediatamente all'abolizione dei voucher così come esistevano. Adesso il problema è con cosa sostituirli, e si riaccende lo scontro perché quelli di MDP, cioè usciti dal PD, dicono che la proposta del PD è una proposta provocatoria, che verrebbe cassata di nuovo dalla Corte Costituzionale e che non è un vero e proprio contratto. Allora, la cosa che mi interessa è se qualcuno di voi ha un giudizio perplesso, come la maggior parte di voi hanno espresso ai microfoni di Radio 24 dopo che sono caduti i voucher, se ci ha capito qualcosa di questa nuova formula che vi propongono, ma soprattutto come voi sostituireste i voucher che ci hanno abolito, cioè il lavoro intermittente. Non sto parlando dell'utilizzo dei voucher a fini elusivi o di evasione, ma il lavoro intermittente secondo voi ha bisogno davvero di una formalizzazione contrattuale come questi ci dicono? Ecco, questa è la seconda domanda che vi poniamo. Chiamateci all'800 24 0024. Mario, cos'altro oltre a tutti questi temi, tanto brevemente da richiamare, cosa ti ha colpito questa settimana? A me fa anche abbastanza sorridere il fatto che in questa continua riproposizione di leggi elettorali, che io ho questo atteggiamento ambivalente nei confronti del dibattito sulle leggi elettorali, no? Che c'è sulla stampa, invade la stampa in maniera massiva. Da un lato sono profondamente nauseato sul ciglio dei conati di vomito, dall'altro però sono consapevole che questo è un tema fondamentale per garantire uno straccio di governabilità anche a un paese ridicolo come questo. Per cui cosa faccio? Seguo, non seguo, cambio canale, cambio pagina. Però quello che mi ha colpito questa settimana è girano voci del tipo andiamo a votare il 24 settembre come la Germania. Dopodiché utilizziamo il sistema elettorale Rosatellum barra Verdinellum che è come quello tedesco. Allora abbiamo un continuo riferimento emulativo, pur se caricaturale, alla odiata Germania, rispetto alla quale la nostra stampa e la nostra politica, un giorno sì e l'altro pure, dice che noi siamo vittime della Germania e dei suoi diktat. Quindi all'incrocio tra il provincialismo e il vittimismo c'è un dibattito pubblico di questo tipo. Poi farei un inciso veramente en passant, perché questo riguarda più i media che il dibattito sulle banche, ma questa mattina in un boxino sul Corriere della Sera si riesce a leggere che ci sarebbe uno studio per aggregare le due Venete e il Monte Paschi. Ora, io capisco il terrore di prendere un buco o l'esigenza di fare uno scoop, però occorrerebbe anche avere un minimo di senso del ridicolo e un minimo, come dire, di codice professionale di evitare di scrivere idiozie in questa maniera. Dai, le banche, ci torniamo tra poco. E invece devo celebrare lo stato del diritto in questo paese. Il TARSU, i musei, questo ne parliamo tra poco. E anche Uber, cioè il concetto è questo paese qua non si può assolutamente sapere qual è la legge vigente. La legge vigente è quella del tribunale adito oggi pomeriggio, perché già domani mattina c'è la proroga, c'è la revoca e c'è la revisione. Ma come fa un imprenditore, un dirigente, un manager ad accettare un posto in questo paese? Come Oscar? Noi prendiamo il fatto che sia stato sospeso l'annullamento di Bombecca Roma. Però Uber, figura se lo sappiamo perfettamente da che parte questa trasmissione tira. Però fammi dire, come fa un tribunale a dire ma non vi siete accorti che il governo aveva fatto una prova? Ma le leggete le normative, le leggi? Ma capisci? E la stessa cosa è successo con i direttori dei musei. Ci sono interpretazioni discordi degli stessi giudici sullo stesso testo della Corte di Giustizia Europea. Mi domando come fa un imprenditore a prendere decisioni di investimento su questo. Io non sto non commentando prende. Nel merito. Non Oscar, prende. Sto commentando nel metodo. Non le prende. Che facciamo? Prende. Io sono ovviamente contento per Uber e mi dispiace senza entrare nel merito. E i cretini, magari qualcuno con cattedra, diranno che è colpa dei tedeschi. Poi se crollano gli investimenti, se la gente va a produrre fuori da questo paese, incluso il CIFA qui davanti a me, poi non possiamo lamentarci. La vera rivolta popolare è chiediamo, sai, una cosa rivoluzionaria, lo Stato di diritto. No, ma questo non è possibile. Lo Stato di diritto è esattamente quello che... E l'autonomia della libera interpretazione del magistrato, quindi ti foltono 5 secondi. Esatto, lo Stato di diritto in questo momento è esattamente quello che sta succedendo. C'è talmente tanto diritto talmente tante virgole perché tu pensi che lo Stato di diritto sia la certezza del diritto. In Italia no, lo Stato di diritto è la libera incertezza del diritto, l'anarchia del diritto, a patto di dire che la sacra legione dei magistrati civili, penali e amministrativi non si possa mai mettere in dubbio, perché loro sono i depositari oramai del diritto di scrivere le norme come capi di gabinetto dei ministri, di applicarle, di interpretarle, di sospenderle, di riconfermarle. Non solo, loro sono tutto. Ma non solo, se hai letto il TAR, ha detto se avessero voluto fare questa cosa, avrebbero dovuto scriverlo chiaramente. Quindi siamo alla celebrazione del tutto vietato, salvo ciò che è esplicitamente consentito. Capite? Questo è un po' la logica. No, ma il punto di fondo è che loro, siccome la sentenza mi è. Purtroppo quella sentenza e il mio commento l'indomani, con molti amici sono andato in scontro. Perché molti amici, ma come? A tal ragione. Loro non sanno fare il loro mestiere perché non hanno fatto la deroga esplicita, perché dovevano fare la deroga esplicita se davvero volevano pensare di farlo, alla luce dell'articolo 45 del Trattato Europeo, che dice la deroga alla libero diritto di stabilimento per l'accesso alla pubblica amministrazione si può fare per i dirigenti pubblici. Peccato che poi ci siano poi accumulate sentenze che restringono l'identificazione dirigenti pubblici, che sono i dirigenti pubblici con i cosiddetti poteri d'imperio, cioè che sono con materie e poteri tali da mettere in questione l'esercizio dei poteri che hanno a che fare con la sovranità nazionale, quindi il museo di Mantova chiaramente tanto è sovranità vero, nazionale, capisci? Magistrati, ammiragli, generali e la così. Camera degli sposi del Mantegna, capisci? Una roba queste che... cose le sa meglio di me di te, solo che mentre dedica decine e decine di pagine alla valutazione del punteggio dei 100 punti della classe di concorso per la selezione, questa cosa di stranieri la tira via in due frasette, senza alcun riferimento ad alcune delle sentenze della Corte Europea di Giustizia. Ci permettiamo di ignorare la suprema fonte del... Per esempio, una, quella che dice il presidente del porto lo può fare un qualunque cittadino europeo. Il presidente del porto nel nostro ordinamento ha più potere di un direttore di museo, che non può derogare a quello che dice il sovrintendente. Allora, per essere chiaro, mi dispiace che molti amici che la pensano come noi siano stati questa volta travolti dall'antirenzismo, dicendo no, il ministero non sanno cosa fare. Errore. Bastava parlare col consiglio giuridico del ministro. E infatti oggi sul Corriere della Sera, cari ascoltatori, se andate a vedere, il Corriere della Sera pubblica appaiati, certo, la sentenza del TAR e il parere preventivo che il consiglio giuridico del ministro aveva chiesto su questo a un consigliere di Stato che dice no, è indubbio alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia europea che non dobbiamo fare la deroga esplicita. De facto quella norma già nella giurisprudenza europea è chiara che non si può applicare a un direttore di museo. Vabbè. E questo il TAR lo sa benissimo, solo che il TAR parla a nome della burocrazia del MIBAC, che ha considerato il bando aperto agli stranieri uno sfregio al fatto che non passa lo straniero. Ecco, questo è il paese. Quindi la legge, il diritto, dobbiamo tutti, purtroppo, caro, non passa lo straniero. Sull'arte, pensa, l'arte che è stata la contaminazione dell'Europa, il brodo primordiale dove si è costruita la civiltà di questa regione. È incredibile, io trovo veramente incredibile. Comunque, detto tutto questo, torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me la segni proprio, non mi preoccupare. Allora, non parliamo della Germania definita bad da Trump tra il vertice NATO e il G7 in cui sono impegnati oggi a Taormina, perché di questo ne parleremo poi quando ci sarà Udo con noi, il nostro Udo Gumpel alle 11:30. Tedeschi che esportano troppo, gente che esporta, caro Cifare, pericolosa, è cattiva, sì, stai attento. È vero. Cattivi tedeschi, ma penso invece che li metteranno in galera. Invece, vediamo un pochino con Mario, qualche aggiornamento della settimana. Allora, da cosa cominciamo, Mario? Ma è uscito il dato di maggio da Istat della fiducia dei consumatori e delle imprese e c'è una flessione in entrambi i casi. Qui c'è da fare una premessa metodologica, noi ne abbiamo parlato nel corso di tutti questi anni. L'indicatore di fiducia dei consumatori in Italia, soprattutto quando sale, tende a non riverberarsi in un aumento dei consumi. Probabilmente perché i consumatori si fanno rimbecillire dalla propaganda mediatica governativa, dopodiché poi stringi, la condizione economica non cambia di molto. Più interessante vedere cosa succede quando questa fiducia flette, ma soprattutto tra le varie componenti della fiducia dei consumatori è utile e interessante fare rilevare che per il secondo mese consecutivo aumentano le aspettative sulla disoccupazione. Quindi, allora, ci chiediamo, già, i consumatori sanno qualcosa che noi ancora non sappiamo? Non si sa. Più probante, pregnante, invece, è l'indicatore di fiducia delle imprese. E anche questo flette. Già. Ad esempio anche nel comparto manifatturiero, che però da alcuni mesi, non solo in Italia, ma in tutta Europa, in tutta Eurozona, sta dando prova di risultati sicuramente confortanti. Qui c'è da dire che potrebbe incidere in qualche misura il robusto rafforzamento dell'euro contro dollaro delle ultime settimane. Perché questo è un dato che è in sottofondo e di cui probabilmente la stampa a livello di commenti non si è ancora accorta, ma sta avvenendo. Quindi magari in prospettiva le aziende più aperte all'export potrebbero iniziare ad avere qualche problema di margini sulle esportazioni. Però Mario, tu lo chiami rafforzamento, non è un rimbalzo dopo un eccesso di pessimismo prima delle elezioni francesi e prima di questo tutto grande battage sul collasso dell'euro? Io sentivo ieri il vice direttore di BlackRock che si aspetta in realtà un decennio d'oro dell'Europa, sia pure a tasso lento. Cioè, è un rafforzamento o è un riequilibrio? Chiedo a te. Ma io ho premesso che non sono nessuno e non ho idea, però diciamo magari l'idea della reflazione e del Trump trade, quindi col surriscaldamento, con la Fed che si mette ad alzare i tassi furiosamente, si è attenuata, mentre dal versante dell'Eurozona, come fai presente tu, c'è stato un rally di sollievo, no? Un relief rally per lo scampato pericolo francese e per il fatto che i populismi si sono ridimensionati, almeno per ora, poi non sarà definitivo. Quindi tutto fa testo, tutto può essere spiegato, probabilmente sì, è una sorta di riequilibrio rispetto a quelli che erano state aspettative di apprezzamento del dollaro molto ravvicinate e molto concentrate. Poi un'altra cosa da segnalare, Istat, sempre Istat, sì, questa settimana ha pubblicato, diciamo, le sue valutazioni prospettiche sull'economia italiana. Voi sapete che adesso anche Istat fa le previsioni macro, perché in questo paese tutti fanno tutto, e c'è una cosa che mi ha colpito. Istat ha segnalato che l'Italia nel 2017, almeno secondo le previsioni attuali, e per la prima volta dopo 3 anni, farà registrare una variazione positiva della produttività del lavoro. Dopo 3 anni di contrazione che stava assumendo un riflesso addirittura angosciante, no? Perché cioè, adesso dovremmo avere un PIL che nel 2017 cresce, secondo le previsioni attuali, dell'1% e un'occupazione in termini di unità di lavoro equivalente nell'anno che cresce dello 0,7, ergo la produttività aumenta. Quindi vorrei fare presente, care belve e cari ascoltatori, che questa cosa che ho appena detto mi deve essere imputata come la notizia positiva della settimana. E per quanto mi riguarda, io direi che per questa settimana ho dato. Hai dato, è fantastico. No, Mario, il tono con cui la nota ottimistica prelude al fatto, ricordatevi che questi 3 anni stavate morendo. No. Forse dicono che mi salvate, ma Io non so, gli esperti siete voi, però la cosa sulla produttività non è anche un maggiore sfruttamento di impianti, visto che quest'anno tutto il settore delle macchine utensili dovrebbe andare abbastanza bene per la questione, in effetti sembra di capire così 4.0. dalla spiegazione, perché poi bisogna vedere come in realtà si consolidano i dati, perché probabilmente abbiamo i dati solo dei primi mesi. Il dato di marzo delle macchine utensili con più 18,3%, proprio uscito anche questo in settimana, è molto incoraggiante, bisognerà vedere. Io però solo voglio dirti che le previsioni così su 4 anni, sì, capito, è l'effetto calenda, tieni conto, quando Carlo Alberto prima diceva andiamo ad anni d'oro, ma cosa, qui con Trump la volatilità sta diventando ogni settimana nel mercato dei cambi. Io ho detto BlackRock, BlackRock ha dichiarato Golden Decade. Sono mica sono scemi. Te la dico dal lato dell'imprenditore. Allora, da un certo punto di vista, la minore prevedibilità del futuro è una disruption per chi fa impresa, e per questo serve, per fortuna hanno fatto le cose di aiuto, Industria 4.0, perché quello è quello che ci aiuterà moltissimo a ridurre i tempi di attraversamento, però, eccetera eccetera. Sulle previsioni a 4 anni dell'Italia sarei molto molto cauto, per così no dire, no, ma le previsioni a 4 anni ormai sono delle, siamo a revisione dei tassi, cioè di crescita attesa e di commercio atteso trimestrali da parte della Banca Mondiale. Quindi, e detto questo, aggiornamenti della settimana, cari amici, perché intanto i commissari di Alitalia mandano i primi 1368 in cassa integrazione, però perché sia chiaro chi ci ascolta, visto che qui i commissari parlano di interventi sul complesso dei costi, aprono rotte, ve lo abbiamo già detto, insomma, quello che è più chiaro ed evidente, ma vi deve essere chiaro, che qui ci sono 3 miliardi di debito, la stima oramai è una stima di convergenza, sia pure non dati alla mano, perché noi non abbiamo i conti del 2016 di Alitalia, per essere chiari, però sono almeno 3 miliardi di debito, uno, e la stima di qualche, se una full service dovesse prendere l'Italia, dovete capire che oltre alla copertura di quei 3 miliardi e alla copertura dei 200 milioni mese di costi fissi, immaginare che una full service integri il mercato domestico di Alitalia, ma anche riconoscendo un ruolo di lungo raggio, significa metterci altri 3 miliardi. Questo ve lo dico perché siate in grado di valutare quello che i commissari ci diranno nel lungo futuro, in cui sembra che non si capisce a nome di quale azionista e di quale solidità finanziaria facciano questi interventi. Però stiamo parlando di un ordine di grandezza che in ogni caso, se è inferiore ai 6 miliardi, significa che non sta in piedi. Cosa diversa è se qualcuno ci prende a pezzi come compagnia regionale solo domestica. Però per essere chiaro, primo aggiornamento, secondo aggiornamento, cari amici, perché bene che ne parliamo tra poco, però facciamo una rapidissima impressione di questa storia delle due banche venete che adesso si rivolgono per scritto in questo fine settimana al ministro dicendo siamo nelle tue mani. Il ministro dice escludo il bail-in. Su che base il ministro esclude il bail-in? Perché abbiamo dovuto aspettare per tanti mesi quello che era evidente nella norma? Perché dobbiamo per l'ennesima volta fare questa penosa, penosa rappresentazione di dire che è l'Europa che ci mette sotto quando era tutto chiaro, e continuano in tutti gli interventi, dopo mesi, dopo anni, a emergere sempre nuove perdite? Che Carlo Alberto, di fronte ai mercati mondiali o a chiunque altro interlocutore, fa solo capire che gli interventi dei regolatori italiani continuano a fare acqua da tutte le parti. Come la pensi, Carlo? Ma la penso come te, ma fammi aggiungere una cosa sulla gestione della crisi che hanno in Europa, che è assolutamente inadeguata. Cioè, le leggi erano chiarissime, i procedimenti di gestione, i tempi di reazione non sono compatibili col capitalismo moderno. Cioè, di tenere in frigorifero 6 mesi. Ma nostri o di Bruxelles? Anche di Bruxelles, mi spiace dirlo. I nostri non li voglio nemmeno commentare, okay. No? Però Bruxelles deve farmi delle procedure blindate con tempi certi, per cui mi dici, mi dai il business plan oggi, ti do risposta fra 48 ore. Non esiste che siamo in un tiramola di questo genere qua. Ma capite come funzionano le banche? Le banche funzionano come un sistema circolatorio. Se appena appena gli metti in stenosi dei sistemi... Sì, ma ho capito. Ma è possibile che nessuno dica ai detentori di titoli delle due venete che invece di sperare in imprevisti miracoli scrivono ad Atlante? Atlante i soldi li ha finiti. Oscar, esatto. Cosa vogliono andare? Da Intesa di nuovo a chiedere i soldi? L'amministratore delegato ha detto non ve li do. In cosa cazzo sperate? Perché il regolatore, perché il ministro non dice signori c'è un'unica strada per questo miliardo aggiuntivo privato, la conversione, il burden sharing, il burden sharing è scritto sulla legge da 4 anni. Non è così, perché non lo dicono, Mario, secondo te? Ah, guarda, mi sembra stanno cercando di impedire che la popolazione prenda consapevolezza della situazione. Per cui sono d'accordo con Carlo Alberto, nel senso che c'è stato troppo traccheggiamento a livello europeo e soprattutto c'è stato un rimpallo definitorio tra la Commissione e la sorveglianza della BCE, anche perché siamo il paziente zero, esatto, in questa procedura. Non c'è precedente, sì, esatto. Esatto, quindi questa è sicuramente una attenuante delle nostre colpe, un aggravante del coordinamento europeo, ma ciò premesso, forse stiamo parlando di situazioni che sono difficilmente recuperabili e si insiste a tenere in vita quello che forse in vita non è. Giusto? Perché cioè, questo è il problema. Io non capisco come si possa continuare a pensare a distanza di tanti mesi a mettere risorse su banche che non capisco. Su che base ritornano a produrre reddito? Su che base? Oscar, però c'è anche questo punto, no, da dire. Il ministro Padoan che dice le banche hanno la liquidità necessaria. Ah, ma beh, ci credo. Del tipo, ma cos'è? Cioè, da dove arriva quella liquidità? Vogliamo commentarlo, Mario? Deriva da emissioni obbligazionarie garantite dallo Stato. Sulla base di quali garanzie non sappiamo. Rischiano di essere scusse, quindi rischiano di essere di nuovo cancellati i soldi prestati dagli italiani. Allora, però, Oscar, ti ricordi, un anno e mezzo Siena, fa... le due venete, tutto il resto sono il grande prezzo da pagare, perché da un anno e mezzo siamo bloccati. Referendum e poi le elezioni. Esatto. Però allora queste cose bisogna dirle così come stanno. Però Siena è su bisogna un altro che piano, i signori detentori di titoli si incazzino come iene, visto che questo è il problema politico del paese. Bloccato per non dirvi che dovete continuare ancora a incamerare altri rischi fortissimi, perché è ovvio che la conversione, non vi devo dire io a cosa vi può esporre. Certo, sì. Ecco, però questo è il punto. Anche se dobbiamo distinguere Siena, che è su una strada, certo, dalle due venete che purtroppo hanno oggettivamente una improbabile strada di autonomia, quasi impossibile. Mentre Siena questa strada d'autonomia ce l'ha ancora, però è evidente che il governo sta mentendo alla nazione, posso dire, sta veramente negando la realtà. La conversione dei bond, se ti ricordi, fu oggetto di un articolo pubblicato sul Sole 24 ore da me e da Franco De Benedetti, era gennaio dell'anno scorso, quando analizzando i bilanci, prima dell'aumento di capitale, vi ho detto, signori, questa è la strada. Ed è con questo stesso tema la banca che riprendiamo tra poco dopo l'interruzione con il professor Marco Nado. L'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia. della belva. Eccoci tornati qui in attesa che io sappia dalla regia se l'ospite è collegato. Allora, lì di che cosa parlavo? Lo spunto è un libro, editore Il Mulino, il cui titolo è Alla ricerca della banca perduta. 260 pagine, a me è piaciuto tantissimo, io ve lo consiglio. È un libro scritto ovviamente da un tecnico, perché è un ordinario di economia degli intermediari finanziari alla Bocconi, è stato commissario Consob, è una delle figure che da decenni più ha fatto anche però per la divulgazione oltre che per l'affinamento delle tecniche regolatorie e del dibattito pubblico su tutti questi temi. Però il libro, che ovviamente viene gustato molto da chi è un appassionato di questa materia, è perfettamente comprensibile anche per chi abbia un interesse generale su questa materia, e ha almeno tre caratteristiche positive, per cui io ve lo raccomando. Ripeto, Alla ricerca della banca perduta, Il Mulino, 260 pagine. Firmato da Marco Indiana Johnsonado, possiamo dire. Firmato da Marco Indiana Johnsonado, che è collegato con noi telefonicamente, che quindi ringrazio. Buongiorno. Ecco, buongiorno. Io gli stavo dicendo i tre motivi per cui lo consiglio ai nostri ascoltatori. Primo, perché riprende dall'inizio, cioè dagli anni precedenti al 2007-2008, primi segni e poi esplosione di Lehman Brothers, per filo e per segno tutti i diversi aspetti che hanno portato poi all'esplosione di quella che è la più grande crisi finanziaria della modernità. Cioè riprende tutti i fili dell'espansione del debito, del cambio di natura del perimetro dell'attività bancaria, del tipo di attività prevalente per la generazione di utili e ritorni per la banca rispetto al canale tradizionale di finanziamento dei debiti delle famiglie e delle imprese, eccetera eccetera. Questo è tutto il primo filone importantissimo, e lo prende mano per mano in tutta la successione di eventi e nelle risposte che poi verranno dai regolatori negli Stati Uniti come in Europa. Secondo aspetto, intreccia e incardina su questa riflessione ciò che avviene poi nell'economia reale e nell'economia del debito pubblico, ma non solo nell'economia del debito pubblico, perché il grande sfondo che spiega la crisi e le mancate risposte ancora dei regolatori deriva dal fatto che noi viviamo una grande epoca, ormai pluridecennale, di fenomenale incentivo al debito. Tutti sono convinti che il debito attraverso l'altra leva sia diventato un rischio che si può maneggiare senza grossi problemi, e lo si continua a pensare ancora oggi malgrado i 10 anni che abbiamo alle spalle. E questo è un problema per molti pezzi di paesi avanzati che hanno caratteristiche diverse. Chi ha un debito delle famiglie esploso, chi ne ha molto meno come nel nostro caso, ma ha un mucchio di debito pubblico, ma l'atmosfera resta questa. Terzo, perché ha dei punti di fondo molto chiari. Pagina 176, che secondo me è il perno su cui gira tutto il libro. I banchieri, citazione testuale, se ne devono fare una ragione. E devono aumentare il capitale. Ecco, questa roba. Ma come che si permette il professor Ronaldo di fare queste richieste? Essere un eresiarca. Pagina 187, quando si parla di uno dei modelli che ha risolto con più successo la questione del credito deteriorato e del crack bancario, stiamo parlando del modello svedese. Lì sono rapidi, non hanno raccontato che hanno come noi le banche più sane al mondo, sono rapidi, fanno tre livelli di gradazione delle banche esposte, alcune sono salvate, altre sono aiutate, eccetera eccetera. Ma il punto è che nei due veicoli pubblici che si fanno carico dell'assunzione del credito deteriorato, scrive testualmente l'autore del libro, l'abbattimento del valore dei crediti deteriorati fu fatto fin dall'inizio con un chiaro metodo, quelli di prezzi di cessione lontanissimi da quelli che erano le stime fatte dalle stesse banche, perché fosse chiaro a tutti gli intermediari, il mondo intero, che non si dovevano aspettare più altre perdite da quelle banche. L'esatto opposto di quello che i regolatori italiani hanno fino a questo momento fatto. Infine, Italia, pagina 216, quando si arriva all'ultimo capitolo, no, il penultimo capitolo, a parlare dei problemi delle banche italiane, c'è una frase fantastica in cui l'autore dice, usa Ettore Petrolini, e parlando dei mismanagement bancario, di quello che abbiamo visto nelle due vente, nelle quattro risolte, Siena, dice a un certo punto, dice, io non ce l'ho con te, ma con quel cretino a fianco che non ti butta di sotto. Ecco, cioè che io non ho trovato una cosa per cui ero in piedi a urlare a casa mia con i bambini che dicevano sei pazzo papà, lo sappiamo. Allora, questa sintesi del tutto non ortodossa, professor Marconado, l'accetterebbe mai come sintesi del suo volume? Eh, Beh, è uno delle chiavi per capire la crisi. Quella frase di Petrolini credo che descriva molto bene la situazione del sistema bancario, perché non è vero che il problema di Banca Veneta è esploso come il vulcano dell'Islanda 10 anni fa. Era una roba che a mezze parole si diceva: ma come fanno quelli lì a fare quelle valutazioni così alte delle loro azioni? Ma i crediti, tutte queste mezze parole in giro si dicevano. Cioè c'è stato un fallimento della corporate governance interna delle banche, clamoroso. E magari anche del regolatore o del controllore. Anche nel caso del ma sai, come dice un altro proverbio, il pesce comincia a puzzare dalla testa, no? E i consigli di amministrazione acquiescenti finiscono anche per essere una cortina fumogena per posso farle una domanda, professore? Da impertinente giornalista senza titoli. Quanto nell'assenza del dibattito pubblico in questi anni sui problemi delle banche, che di volta in volta sono esplosi nel nostro paese dopo aver raccontato che avevamo il sistema più sano d'Italia, quanto nell'assenza del dibattito pubblico di moltissimi, della stragrande maggioranza dei cattedratici che insegnano discipline che hanno a che vedere con gli intermediari finanziari, dipende dalla quantità di perizie che avevano firmato negli anni precedenti? Una buona parte, magari facciamo una bella correlazione la prossima volta. sì, credo che qualche cosa. Perché che io mi trovi come giornalista a dover dire sui giornali oggi che in questo fine settimana la lettera degli amministratori che dice: andate da Questio, questo vi ha detto che i soldi li ha finiti, andate da Intesa, l'amministratore delegato ha detto noi fondi. Sembra basta. Gesù con, cioè, Pilato e com'è Caifa, possibile? Che risposta dà, professore? Il guaio di questo paese è questo consociativismo spinto degli amici degli amici. Le banche, ma anche le imprese italiane, negli ultimi 20 anni sono state spolpate da questo sistema. De Bortoli nel suo libro ricorda a un certo punto che al momento delle privatizzazioni avevamo la migliore impresa di telecomunicazioni in Europa, che è Telecom, è la migliore impresa del mobile, che era Omnitel. E ce le siamo giocate tutte e due. Già. Spolpate via via in una serie di operazioni fatte da amici degli amici su piccoli vantaggi personali, piccoli o grandi conquiste di potere e così via. E nel frattempo le imprese sono caricate di 40 miliardi di debiti. Però Marco, dobbiamo parlare anche di futuro, perché a pagina invece 210 del tuo libro c'è il conto economico, esatto. Questo sconosciuto. Vogliamo dirci che lo stato patrimoniale possiamo anche sistemarlo con delle operazioni straordinarie, ma il conto economico nei prossimi anni su cosa si regge? A me sembra che tu sia stato molto chiaro a dire che le gambe fragili di alcune banche, molte, centinaia di banche, non possono affrontare questo cammino. Certo, questo voglio dire è un problema non soltanto italiano. È cambiata completamente la tecnologia, non con la stessa velocità è cambiato il modo di fruire, di utilizzare i servizi bancari e soprattutto l'apparato di costi relativo. Il prezzo del capitale, diciamo, è crollato, i costi per gestirlo sono rimasti quelli di prima, i volumi sono ristretti se non addirittura in contrazione forte. Mi dici come fa a stare in piedi un conto economico? Infatti sono stati già tagli dolorosi negli sportelli e quindi nel personale, perché le due cose vanno insieme. E purtroppo tutto la tecnologia, l'economia ci dicono che dovrà essere fatto molto di più, quindi avremo un problema ulteriore e tra l'altro senza che nessuno pensi a qualche ammortizzatore sociale, perché Voglio dire, è facile dire che dai 300.000 bancari di 17 anni fa, e adesso sono 270, quel che sono, devono diventare, che so, 150, 180. Però questo non si sostiene solo con il fondo autonomo e proprio con cui hanno gestito fino a questo momento il problema dell'esodo, perché i numeri sono molto maggiori. Torniamo tra un minuto. Della belva. Ed eccoci qui tornati in diretta al 10:49 primi e 22 secondi. Parliamo di banche perché lo spunto è questo bellissimo libro, un vero manuale in cui troverete riassunte, ma con una ricchezza anche di riferimenti bibliografici al dibattito teorico e pratico di ciò che è avvenuto nella crisi del modello di intermediazione bancario dal prima 2008, poi 2008, poi la crisi del debito sovrano, in questo grande orizzonte del grande incentivo al debito, perché il debito alla fine sostituisce il reddito che non si produce prima, e di che cosa vuol dire vivere in un mondo in cui però man mano scopriamo che le tecniche di valutazione degli asset pesati per il rischio mettono in crisi, perché non le vogliono davvero i banchieri, preferiscono i modelli autocentrati in cui però non si coglie la dimensione stratosferica della finanza sintetica, e questo è un problema ancora irrisolto nel mondo, anche se però le miserie italiane non hanno tanto a che vedere con questo, ma hanno a che vedere con storie invece di credito relazionale e di connivenza dei regolatori. C'è una domanda che io faccio al professor Marconato che riguarda il capitolo 9 del libro, è quello in cui si torna al dibattito teorico di cosa, chi e come tra le scuole di diversi economisti abbiano ravvisato il rischio di questa grande fede nel debito, e poi, dopo averlo individuato, ne abbiano anche indicato i rimedi. Io trovo, ma magari mi sbaglio, deriva dal fatto che sono solo un appassionato cretino, professor Nando, il fatto che quando si spiega alla gente, leggete Ayman Minsky, che è una delle letture di riferimento per cosa vuol dire la ricorrenza della fiducia nel debito, delle crisi del debito nella storia dei mercati, si tende sempre a fare una roba, e qui chiedo anche a lei, perché anche lei vedo che poi a un certo punto dice, beh no, ma qui il modello keynesiano ci dice, così via, e quindi è stato il neoliberismo, la fiducia nell'autoequilibrio dei mercati, uno, due, la fiducia nei modelli di autovalutazione delle banche, tre, a portarci a tutto questo. Però lei lo sa, ma 100.000 volte meglio di me, che questa lettura fa dimenticare a chi legge e chi magari non sa che neoliberisti, i mercatisti sono quelli della scuola austriaca, Mises e Hayek hanno scritto sul fatto che il malinvestment per l'eccesso di debito e per le decisioni conniventi dei regolatori è una tendenza permanente contro cui bisogna opporsi. Magari Greenspan, che quando ha scritto i suoi libri non ha ammesso che lui produceva un set di dati sulla produttività tale per cui l'obiettivo era quello di incentivare esattamente l'azzardo morale. Allora, che ci siano liberisti che hanno sbagliato, sì, ma che la questione sia chi segue la via dello Stato ha sbagliato di meno, mentre sono i liberisti che invece hanno messo le basi per questa cultura del debito esplosiva. Perché? Ha fatto una precisazione molto giusta. Il neoliberismo che ha prodotto la corsa al debito, quello che si chiama la visione corta, no, del guadagno a breve, non ha nessuna parentela diretta con i grandi del liberismo della scuola austriaca. La ringrazio. Von Mises ha scritto una cosa che io ricordo sempre ai miei studenti, dice: uno può bruciare, può riscaldare la casa bruciando i mobili di casa, ma non si mette nella zucca di aver scoperto un metodo particolarmente furbo di risolvere il problema del riscaldamento, no? Perché alla fine rimane senza mobili. Indebitarsi è esattamente mettere nella stufa i mobili di casa. Questo volevo dire. Io la ringrazio perché questo nel dibattito italiano è raro sentirlo dire. Perché mentre tutti citano Robert Lucas, la fiducia dei mercati, auto, eccetera, eccetera, però che fondamentali pezzi del sistema di pensiero della scuola austriaca mettessero in guardia esattamente contro quelli, come ce n'erano poi anche dal punto di vista di keynesiani. Quindi io non sto però ecco, diciamo che dire che è tutta colpa del neoliberismo è una roba che vorrei evitare. Però almeno posso chiedere al professor Ronaldo la banca che vogliamo? A questo punto il suo libro si chiude anche su questo: che banca vogliamo? È tutta colpa del neo, non del liberismo. Esatto, sì, sì, perfetto. No, molto. Però a molti questo neo invece lo identificano con quello classico storico. Comunque, detto questo, lei è stato chiarissimo e la ringrazio. Dicevi, Carlo. No, volevo chiedere della banca del futuro, perché c'è questo suo ritorno al futuro. Il libro di Marco è praticamente una collezione di titoli di film. E chiedo a questo punto, ritorniamo al futuro? Quale futuro? Perché non è mica chiaro che banca ci servirà davanti. Allora, io credo che la funzione essenziale della banca sia quella della concessione del credito ed è quella legata agli investimenti e alla crescita produttiva. Quindi non è che ci sia nulla da scoprire, c'è soltanto da mettere la museruola, la mordacchia, meglio di quanto sia stato fatto finora, alla finanza distruttiva. Mi pare una risposta chiara. Poi questo come farlo è vedremo su questo, magari ci torniamo. No, ma non c'è dubbio. Tanto leggete e comprate questo libro, ne vale la pena. Fidatevi, ed è anche uno dei tanti contributi che il professor Ronaldo ha dato in tutti questi anni a un dibattito pubblico elevato in questo paese, capace di chiamare i problemi e le responsabilità col loro nome. Grazie professor Ronaldo. Dopo Giornale Radio noi torniamo con voi. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi i libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni e critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Il segnale orario vi è offerto da Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della belva. Ed eccoci qua, tornati in studio a Milano alle 11:08 primi e 22 secondi a Conte da Belva. Oltre a me in studio Renato Cifarelli. Ho rubato il posto a Carlo Alberto. Perché Carlo Alberto è andato a fare un incontro a Cattolica di Piacenza e poi collegato, resta con noi Mario, ci eccolo. Sei? Eccolo qua, sì, Mario, sì. Mario, Mario, che non so se tu hai avuto tempo e modo di leggere il libro del professor Ronaldo, ma comunque a me è piaciuto molto, devo dire la verità, come si è capito dall'entusiasmo con cui alcuni hanno detto troppo entusiasmo per Marco Ronaldo da parte di Giannino. Garantisco, non c'è nessun interesse. Ma io mi riprometto di leggerlo nei prossimi giorni quando prenderò una breve vacanza, e quindi vediamo se riesco a farcela. Entrambe le cose, la vacanza e la lettura del libro, soprattutto del la vacanza. No, il libro io non lo dubito come te li legge così, ma la vacanza, vedete la svolta ottimistica di Mario Seminario è in corso, questa è una prova provata. Allora vai, sentiamo rapidamente, prima di andare al tema dei voucher e parleremo dei voucher, di questo casino che non si riesce bene a capire se è politico, se è tecnico, su come reintrodurre, in quale forma, con quali oneri e quali costi ciò che non c'è più, cioè al posto del voucher per lavoro intermittente. Ne parleremo con Marco Leonardi, consigliere economico di Palazzo Chigi, che insegna economia alla Statale di Milano. Ma intanto due rapidissime telefonate da parte vostra e poi anche un ascoltatore che chiede una risposta a Renato Cifarelli. Preparati Renato, perché c'è un ascoltatore che abbiamo mandato un messaggio. Quindi prima delle telefonate cominciamo con Lidia che ci chiama da Bergamo. Lidia, prego. Buongiorno, ti ringrazio per la possibilità di parlare. Si figura. Io volevo raccontarvi la nostra esperienza. Abbiamo usato i voucher pochissimo, con un pochi lavoratori, solo quando era strettamente necessario, e tante volte dando più voucher per le ore lavorate di quelle che dovevano essere date, perché il lavoro era svolto particolarmente bene e reputavamo di dover gratificare il lavoratore. Il giorno che sono scaduti i voucher, che non sono stato più possibile utilizzarli, passato nemmeno 3 giorni mi sono trovata le forze dell'ordine che continuavano a passare per controllare sul piazzale, fotografando le targhe delle persone presenti, per verificare se per caso avevamo ancora qualche lavoratore che poteva essere presente senza voucher e quindi ovviamente in nero. Io lavoratori in nero non ne ho mai avuti. Ho trovato questo comportamento offensivo. Praticamente far lavorare la gente in Italia come lavoratore in tante situazioni vuol dire essere un delinquente, perché alla fine è così che mi sono sentita trattata. Quindi, allora lei vedrà che adesso a me sentire questa gente che mi dice: diteci voi come dobbiamo fare con i voucher, ma sa che io ho della gente che mi chiama e mi dice: ma quindi niente voucher, quindi quest'anno non posso più fare niente con voi. E io, cari miei, io nero non ne faccio e non ne ho mai fatto. E quindi cosa vi devo dire? Ringraziate la CGIL, ringraziate tutta questa gente che sta ingessando l'Italia, impedendo qualsiasi possibilità di far lavorare la gente regolarmente, anche con dei lavoretti saltuari, che comunque in una situazione di crisi economica come quella che c'è in questo momento... Sempre meglio farli però... con 2,5 euro su 10 di contributi, piuttosto che invece o in nero o niente, perché l'alternativa a chi non vuole fare il nero attualmente è niente. Grazie a Lidia per la sua testimonianza. Mario da Savona, Mario. Sì, buongiorno a tutti. Sì. Io volevo intervenire sul tema banche. Sì. All'inizio degli anni 2000, non ricordo la data, il Sole 24 Ore aveva organizzato un convegno che aveva titolo, non ricordo male, La banca come fabbrica, che assecondava una corrente di pensiero che veniva portata avanti in quel periodo da certi manager, uno in particolare, che la banca dovesse smettere di essere una specie di ente, ma dovesse diventare a tutti gli effetti una fabbrica che produce dei prodotti che piazza sul mercato. Secondo me l'origine della crisi, la drammatica crisi, nasce da lì. Io comprerò il libro di Marco, del professor Onado, e spero di riuscire a trovare allora, qualcosa che discuta anche di questo. Lo dico subito, la rassicuro, perché troverà nei capitoli in cui si passano in rassegna i diversi e maggiori fenomeni che hanno portato all'esplosione dell'intermediazione, al proprietary trading, eccetera, eccetera, anche il passaggio al modello di banca originate to hold, che è esattamente la sintesi di quello che lei dice. Cioè come... La cosa drammatica, Giannino, che questo concetto, che il prodotto bancario andava distribuito e commercializzato come qualunque altro prodotto, è stato applicato anche ai crediti. Sì, esattamente. Se oggi noi ci troviamo con la montagna di NPL che abbiamo, non è solo perché c'è stata la crisi. Perché aziende che avevano un merito creditizio di 100, si diceva: ma perché 100? Diamogli 150, 200. La proliferazione degli aspetti attraverso cui l'originazione di prodotti sintetici e complessi applicati a tutte le diverse classi di asset, questo è il motivo per cui, che ne so, se uno va a vedere il bilancio di Deutsche Bank integra, consolida più di 2000 diverse entità legali sotto Deutsche Bank, perché si occupano appunto di tutti i diversi aspetti, ognuno con un veicolo speciale ad hoc, per seguire e declinare quel modello. Allora, questo è uno degli aspetti. Anche lì non bisogna demonizzare, ma bisogna capirne gli eccessi, per così dire. Dal punto di vista regolatorio, poi come far rientrare tutto questo è molto complicato, però è uno dei grandi dibattiti sottostanti poi alla Dodd-Frank negli Stati Uniti, sottostanti anche rispetto a cosa vuol dire, per esempio, applicare Basilea per quel mondo lì e per quegli asset lì, eccetera, eccetera. Quindi grazie per questa domanda, è una domanda un po', insomma, non di quelli che può interessare tutti, però posso rassicurarla, nel libro trova esattamente un riferimento alla questione che lo interessa. Allora, l'ascoltatore che ti chiedeva, Renato? Arriva alla radio un sms dove c'è scritto: domanda concreta per Renato Imprenditore, ma rifornirsi di denaro costa più a te in Italia o ad un imprenditore tedesco? Adesso non vorrei fare Udo, però il costo del denaro è dato dal rating, e non è diverso dalle, nelle vari, nei vari paesi per una questione di paese, è una, diverso nei vari paesi per una questione di rating dell'azienda. Quindi non è detto che io paghi il denaro, al di là del fatto che la mia azienda, avendola sempre capitalizzata con gli utili che facevamo, per fortuna non ha particolari debiti, però non è detto che un'azienda ottima e sana con un rating alto, e ce ne sono tante in Italia, paghi il denaro di più di una in Germania. È evidente che se l'azienda è sulla soglia del fallimento, è lì lì per andare a finire negli NPL, perché poi alla fine qualcuno questi NPL, cioè i non performing loans, cioè i debiti che non si riesce a restituire, li avrà creati, certo che se è lì sul, sul bordo... il denaro lo paghi tanto, ma è lo stesso, è, una, è un problema, il costo del denaro è il rischio, il denaro è una merce, anche se il consumo, il, chi ha chiamato prima diceva che le banche non sono una fabbrica, io ho sempre detto il denaro è una delle tante merci che l'azienda ha bisogno e ha un prezzo, quindi il denaro ha un prezzo dipendente da quello che è il prezzo del denaro, cioè io riuscirò a restituirglielo? Sì, prezzo basso. No, oppure c'è un grosso rischio, prezzo più alto. Quindi il problema è che l'azienda di Cifarelli tradotto non paga un rischio molto più elevato di quello tedesco, ma per il semplice fatto che lui non è un imprenditore medio italiano, scusate, la dico così perché lui non può dirlo, ma lo avrete capito, poco debito, reinvestono gli utili. Capite? Non è un imprenditore italiano classico. Non usiamo i voucher, no. Paghiamo le tasse. Vabbè, dai, siete dei matti. Allora siete dei matti. Benissimo, torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta. Dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. E fino alla morte l'Italia pagò. Sì. I conti della Belva. Eccoci qui tornati, cari ascoltatori dei Conti della Belva, e approfittiamo della disponibilità che ci ha dato in questo sabato mattina Marco Leonardi, consigliere economico di Palazzo Chigi, professore di economia dell'Università Statale di Milano, per tentare di capire, di farvi capire, di capire anche noi, tutta questa cosa che da tre giorni sta vampando come un Vietnam sui giornali, su come si sostituiscono i vecchi voucher. E tutta questa polemica politica che si è scatenata tra pezzi di maggioranza, il PD e i fuoriusciti di MDP, cosa vuol dire concretamente rispetto alla soluzione che possiamo realisticamente attenderci? Cosa cambia per chi lo usava, nel caso in cui fosse una famiglia, per servizi di assistenza alle persone, o nel caso in cui fosse un'impresa? E cosa cambia anche per chi viene richiesto del lavoro occasionale? Allora, insegna economia alla Sala di Milano, grazie al professor Leonardi di essere con noi. Buongiorno. Allora, vediamo se abbiamo capito come giornalisti. Qui il problema aperto in Parlamento, con la premessa che il governo, dopo aver, per far decadere il governo, assunto la linea dell'abrogazione integrale, in Parlamento a suscitare polemiche, se si capisce bene dai pezzi dei giornali, è la soglia di lavoratori delle imprese per graduare il maggiore o minor utilizzo degli strumenti che dovrebbero sostituire i vecchi voucher, stante il fatto che mi pare di capire tutti sono più o meno d'accordo che i nuovi strumenti per il lavoro occasionale avrebbero un limite di compenso orario di 9 euro per le imprese, si aggiungono poi contributi al 33%, però anche su questo ci dica. Allora, però la questione sarebbe, deve valere un limite sotto il quale è più favorevole per l'utilizzo di massimo di 5 dipendenti oppure no, oppure bisogna alzarlo? Dopodiché c'è chi invece dice no, anche il nuovo strumento non va bene perché in realtà bisogna usare la forma contrattualizzata, esistevano i contratti per lavoro a intermittenza, perché non usate quelli? La controobiezione delle imprese era ma quelli arrivava da 22,5 25 euro lordi l'ora, e rispetto ai vecchi voucher stiamo parlando di 2,5 volte in più. Allora, professor Simone, ci aiuti a capire, stando che abbiamo capito che il governo dice in materia parlamentare, ma lo scontro è su il numero di dipendenti e le tipologie di impresa a cui consentire un nuovo strumento, ma non oneroso come il ricorso al vecchio contratto a intermittenza, oppure non abbiamo capito proprio nulla, è solo una questione politica? Lo scontro è, cioè, tra chi dice che va bene così e non ci vuole niente e invece chi sostiene che bisogna trovare una nuova legge, un nuovo strumento per colmare quel buco che è stato lasciato dai voucher e regolamentare in maniera innovativa con un contratto il lavoro occasionale. Cioè, questa è la vera differenza. Chi dice che il lavoro occasionale non dovrebbe esistere, non dovrebbe essere regolamentato, e c'è chi dice come noi che invece è necessario dare una forma contrattuale al lavoro occasionale. Ma scusi, i tanti, perché qui arrivano telefonate dal primo giorno dell'abrogazione, prima ce n'è stata un'altra, di imprenditori che dicono: io così, io nero non lo faccio, e a chi mi chiama, utilizzavo per i vecchi voucher, gli dico: signori, io non mi posso prendere. A chi sostiene la linea non bisogna dare uno strumento ad hoc per il lavoro occasionale? Restano indifferenti totalmente, secondo lei, di fronte al fatto che il bivio a quel punto è tra o non lavorano per niente o in nero? È chiaramente una posizione politica, si è visto benissimo, si capisce anche bene guardando il giornale di oggi, è una posizione politica, chi dice il referendum ha abolito il voucher e quindi non ci vuole più nulla. In realtà moltissimi altri, credo la grande maggioranza degli italiani che ha scritto anche a noi in questi mesi, certo, la relazione e anche delle altre forze sociali e politiche, sono tutti d'accordo che una regolamentazione ci vuole, quello che stiamo cercando di dare con questo emendamento. Cioè, sostanzialmente anche le imprese piccole, quindi sotto i 5 dipendenti, è uno strumento per le imprese piccole che non si concentra sui risparmi di costo, perché è piuttosto caro come strumento, ma si concentra sulla semplificazione burocratica. Noi diciamo le aziende piccole, quelle che non fanno contratti, ma ha sempre fatto pochi contratti perché è troppo burocraticamente difficile, adesso hanno uno strumento più semplice, che però è molto limitato, perché deve essere limitato al lavoro occasionale. È definito lavoro occasionale qualunque lavoro che viene pagato per un'azienda meno di 5.000 euro l'anno, cioè c'è un tetto, un'azienda ha 5.000 euro da spendere in lavoro occasionale l'anno, perché sennò poi dopo non è più occasionale, e un prestatore, un lavoratore può prendere al massimo 5.000 euro da lavoro occasionale, sennò non è più occasionale. Questa è la definizione di lavoro occasionale, che prima non c'era, adesso ci sarà. E credo che sia giusto che ci sia, perché far finta che il lavoro occasionale non esista è sbagliato. Anche la Corte Costituzionale, tra l'altro, lo dice, quando ammise il referendum abrogativo della CGIL, vi faccio dire questa cosa, guarda, certo. La CGIL ha un merito di avere, e questo bisogna riconoscerlo, bisognerebbe dirlo, ha un merito di aver detto che i voucher come pezzi di carta, diciamo, non sono uno strumento adatto per le imprese, non sono giusto, non sono strumento adatto. E hanno ragione, i pezzi di carta, non c'è una grande differenza tra un pezzo di carta e il denaro contante, quindi tanto è vero che in Europa non si usano voucher per le imprese, non ci sono mai stati, non ci sono i voucher per le imprese. Ha avuto ragione la CGIL, aveva ragione, tanto è vero che li abbiamo tolti. Detto questo, la Corte Costituzionale, quando ha dato il via al referendum abrogativo, rispondendo all'Avvocatura dello Stato, ha detto sì, lo possiamo togliere. L'Avvocatura dello Stato ha detto: guardate che qui si crea un buco se lo togliamo, quindi il referendum dovrebbe essere ammesso perché il lavoro occasionale è costituzionalmente definito. E invece la Corte Costituzionale ha detto: no, va bene, il referendum è ammesso. Si è creato un buco. Cioè il buco legislativo, il lavoro occasionale da quel momento in poi non è più rivolto. La domanda che le faccio, questo viene dai molti casi concreti, che ne scelgo uno. Allora, noi abbiamo avuto nei mesi qua successivi all'abrogazione, come lei immagina, le filiere si sono esattamente quelle che poi hanno chiesto di capire le conseguenze, che cosa si potevano aspettare, sono esattamente quelle che poi nei report di approfondimento dell'Istat si verificano come quelle che facevano il maggior ricorso ai voucher. E a dire la verità, io per primo ho detto, mentre era evidente che nell'edilizia c'era un problema e che quindi occorrevano restrizioni eccetera, ci sono le filiere della recessione turistica e dei ristoranti e delle pizzerie, che si conferma anche dal numero di telefonate che ci fanno. La domanda che ci fanno è: ma col nuovo limite di 5.000 euro, per me classicamente pizzeria, quindi sotto i 5 dipendenti, quando mai io e mia moglie e uno in cucina, sono due dipendenti, ma il ricorso che noi facevamo a seconda delle prenotazioni per il sabato e la domenica ai voucher, e io comunque sotto i 5.000, da quello che capisco, se quello è il mio limite annuale, mi scrive chi aveva già telefonato, mi dice: io non ci sto. Quindi alla fine per chi è possibile il ricorso? Cioè proprio per cose micro e si sbaglia il nostro ascoltatore? Guardate, c'è sempre chi dice troppo poco, chi dice troppo tanto. Questo, la CGL è sempre troppo tanto, non vorrebbe fare nulla, e invece chi dice 5.000 è troppo poco. Ma guardate, bisogna anche rendersi conto di una cosa: se una pizzeria, se un ristorante, una pasticceria, un bar che fai sabato sera ha bisogno del lavoro occasionale, questo è lo strumento giusto. Però anche loro si devono rendere conto che se poi ha bisogno del lavoro occasionale troppo spesso, allora quel lavoro non è più occasionale, deve prendersi qualcuno part-time, deve prendersi qualcuno a chiamata, deve fare uno sforzo per crescere. Cioè il fatto di rendere chiaro che il lavoro occasionale ha un limite quantitativo... No, ma questo è ben chiaro. Secondo lei passerà la vostra impostazione? Come finisce politicamente? Le chiedo una palla di vetro, lo so che non è... Non lo so, però mi piacerebbe, noi discutiamo del merito delle questioni, cioè bisogna, adesso inizia la stagione, in agricoltura, nelle spiagge, nei bar, nei ristoranti. Esatto, ce n'è bisogno, diciamo. Non bisogna far fronte. Esattamente, no, su questo io sono molto d'accordo con quello che... Bisogna farlo adesso. Esattamente, no. Il momento è pronto, operativo subito, con dei limiti molto precisi, mi faccio aggiungere anche questo. Chi era giustamente dubbioso del voucher, diceva: ah, ma ti dà un voucher per farci lavorare 10 ore. Guardate che il sistema che sarebbe messo su è totalmente elettronico, esatto, e quindi totalmente tracciabile. Cioè l'INPS, siccome io devo dire prima che il lavora per me dalle 10 alle 12 di martedì, anzi con un minimo di 4 ore devo dirlo, anche questa è una novità, cioè esatto, non posso far finta di chiamare uno per un lavoro, quando mai? In un negozio, in un bar, tu vai a lavorare un'ora, è ridicolo, vai a lavorare 4 ore, quello che vuoi fare 4, 5, 6, 7, ma al minimo 4 ore, quindi 36 euro di compenso netto è il minimo per una giornata, per 4 ore di lavoro di un ragazzo, una persona che fa questo lavoro. Dico, questo è totalmente tracciabile, cioè l'INPS sa esattamente chi lavora dove e che ore. Quindi anche le ispezioni, che prima non erano possibili, saranno possibili no, al telefono, no? No, cioè, anche perché... Anche la telefonata dice tutto, nel circuito che... Va detto che se già i controlli dell'INPS avevano portato a identificare insomma, numerosissimi casi in pochi mesi, ora che la formalizzazione preventiva nella richiesta dell'utilizzo dello strumento si estende a particolari dettagli, orari eccetera eccetera, gli incroci di dati possono essere ancora più efficaci. Va bene, intanto noi ringraziamo il professor Marco Leonardi di aver tentato di spiegarci intanto il problema politico tra chi dice non bisogna far nulla e resta indifferente alle conseguenze e chi dice no, bisogna creare uno strumento sia pure più costoso, sia pure più preciso nei limiti, sia pure più rigoroso nella comunicazione preventiva, però va fatto, e va fatto adesso perché ci sono le richieste dell'economia stagionale. Vedremo come andrà a finire. Grazie professor Leonardi, noi torniamo tra un minuto. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Beh, ragazzi, questa settimana però la musichetta felliniana di Nino Rota ci sta tutta. Se avete visto al vertice NATO Trump come ha preso il premier Montenegro, lo ha spostato di 2 metri per andare in prima fila a farsi fotografare. Ma attenzione, era reduce da un viaggio in Arabia Saudita, in Israele, che però, dove però di pasticci non ne ha combinati, a differenza di quello che si aspettavano i giornali americani. Certo, ha fatto una scelta che è molto diversa da quella che ha provocato insuccessi di Obama. Ma adesso siamo al Consiglio europeo, al G7 dopo la NATO, e il nostro presidente degli Stati Uniti non ci ha deluso, perché ha detto 3 volte bad, bad, bad, ed è la Germania che è cattiva, è cattiva per siamo il suo assieme, solo posto. Udo, siamo assieme, perché anch'io sono un esportatore, quindi siamo cattivissimi in due. Allora, Udo Gumpel, ma tu... L'Italia ha raggiunto quasi la Germania, non in vetta, però nella posizione dei primi 3, medaglia di bronzo anche all'Italia come esportatore verso gli Stati Uniti. Ma insomma, questa roba che voi siete cattivi, ma che cosa insegna a Pescara anche Trump? Trump, devo dire che è un proprio idiota, non si può dire che è un idiota, perché chi non conosce le cifre, e credo che lui non le conosca, mentre forse i pescaresi le conoscono, ma le mentono sapendo di mentire, lui non le conosce davvero. Lui, per esempio, quando ancora in campagna elettorale straitava contro le tante BMW per le strade in America, it's bad, bad, bad, lui non capisce che le BMW in strada negli Stati Uniti vengono prodotte a Spartanburg, lui pensa che sia vicino ad Amburgo, ma è una città americana e che produce il doppio di quello che il mercato americano riceve. Dunque la BMW è il primo esportatore di macchine negli Stati Uniti e con un valore aggiunto enorme, un contributo molto forte all'economia americana. Ma tu dici che proprio non lo sa? Tu dici che non lo sa? Proprio non lo... No, secondo me lui non lo sa, lui le spara così come gli vengono, proprio a bar sport. E Trump è il bar sport dei cretini che una volta sapevano di essere cretini. Oggi hanno internet e lui ha Twitter e lui le spara in continuazione. Io non vorrei essere un giornalista professionista del suo staff, sarebbe veramente da avere cardio palmo ogni secondo quando tu vedi The Real Donald Trump. E cosa spara? Ma infatti stavolta vedi che non fanno mai le conferenze, non le fanno più le conferenze con i media americani. Non le fanno più perché lui la cosa è molto più grave ancora. Lui non solo non sa le risposte, ma appena finita la domanda non si ricorda neanche la domanda. Cioè, secondo me ha proprio un problema anche fisiologico. Però agli americani piace così. Agli americani piace così. Ragazzi, dobbiamo metterci in conto che lui è il medio americano, quel 45% degli americani. Dai, ma adesso non puoi dire. Stai mancando di rispetto a tutti gli americani, così però. Ma no, lui si identifica. Ma sono 85 milioni che l'hanno votato e per loro è la figura di rappresentazione perfetta. Non per la sua. Ma sai, quelli dovevano scegliere con l'establishment corrotto della Clinton dall'altra parte. Non è che fosse una bella scelta. Appunto, lascia stare la scelta in mali minore. Loro l'hanno votato, secondo me, non per la sua politica, ma semplicemente perché è Trump, perché gli piace Trump. E questa è la rappresentazione della loro essenza. Cioè, capisci, se tu viaggi in quelle zone dove lui ha vinto, stravinto, nel Rust Belt, ovvero nella zona, e sono gli americani esclusi, che non ne possono più di vedere, capisci, le figlie dei presidenti come principesse del sangue reale. Guarda, è uno analfabeta che e si è stufato che qualcuno gli dice che è analfabeta, e allora lui è la figura perfetta. Io l'ho visto, guarda Oscar, io sono di solito uno che vede il bicchiere mezzo pieno, ma qui veramente non c'è da vedere nulla nel bicchiere, capito? Cioè, quando tu lo vedi qua al vertice di Taormina, dove adesso mi trovo, è veramente una situazione disastrosa, disastrosa. E il suo staff che tenta, cioè adesso in questo momento, mentre noi parliamo, sì, di Sherpa, che sono quelli che tentano dietro le quinte di trovare un minimo compromesso, quel denominatore minimo e che di cui si spera che possa arrivare al comunicato congiunto, ma manco quello sappiamo, forse non ci sarà neanche un comunicato comune. È un totale fallimento questo vertice, già la NATO era fallimento, ma qui adesso davanti a tutto il mondo. Non esiste più il mondo occidentale delle democrazie come lo abbiamo conosciuto prima. Lui, se lo vuoi localizzare geopoliticamente, sta tra Orban, Putin e Erdogan. Questa è la sua famiglia. La sua famiglia politica sono questi tre. Mettici pure un dittatore sceico che ha inventato l'ISIS. Allora io devo dirti una cosa. Io sono stato molto colpito ieri sera nel vedere le immagini che il New York Times ha proposto a tutti i suoi lettori, le trovate ancora sul sito per chi fosse curioso, e che dimostrano con quale violenza i membri dei servizi che accompagnavano Erdogan nella sua visita negli Stati Uniti all'inizio della settimana hanno avuto via libera nelle vie di Washington, negli Stati Uniti, nella capitale, per malmenare brutalmente, prendere a calci nei denti cittadini americani che protestavano. Io quando ho visto quelle immagini sul New York Times, e soprattutto mi ha colpito il fatto che il dispositivo di sicurezza americano li lasciava fare, esatto. Io devo dire, Udo, che mi sono fatto una domanda: ma è possibile mai che nelle vie della capitale degli Stati Uniti gli uomini dei servizi, e sono uomini dei servizi, non sono sospettati? Il New York Times dà le prove, c'è il fermo immagine sulle loro pistole, sui loro badge, sui loro auricolari, eccetera eccetera, hanno avuto via libera dalle autorità americane per picchiare cittadini americani per strada. Io ti dirò, Udo, che non ricordo una cosa simile. Cioè, questo è, infatti, che le autorità americane non proteggano cittadini americani contro le aggressioni organizzate, volute e da un capo di Stato dittatore del veramente, cioè, voglio dire, scusami, le votazioni in una situazione democratica come la Turchia, anche Hitler si è fatto eleggere tre volte, capito? Perché se tu metti in prigione l'opposizione, hai sotto controllo la stampa, voglio dire che c'è un miracolo che sia arrivato al 49%. Quindi, insomma, mi pare di capire che sei molto scettico di, insomma, le cose non vanno bene, ecco, cioè, assolutamente non andranno bene, assolutamente. Ma i generali tedeschi come hanno preso Trump nel post-NATO? Posso dire che sono rimasti molto sorpresi, perché i tedeschi, che sono tra quelli più fedeli ai valori americani, capito? La Merkel ha preso una posizione, credo, molto saggia. Ha detto a noi, quando ha fatto gli auguri a Trump, ha detto: noi condividiamo i valori della libertà, della democrazia e dello Stato di diritto. Sottinteso che ce li avete voi messi di nuovo nel sangue quando avevamo 13 anni di follia nazista. Okay? Questo l'ha detto la Merkel. E lui, naturalmente, non ha fatto una piega, perché lui ancora gongolava dalla vittoria, però. La linea nostra deve essere: noi dobbiamo difendere i valori della grande democrazia americana contro quel governo americano. Questo purtroppo è lo stato attuale delle cose. Bel problemino, per così dire, bel problemino. Lo è anche per l'economia mondiale, perché i tassi di imprevedibilità di quello che può succedere sono molto elevati, secondo me. Io ho sperato molto, adesso inizio di nuovo a ricredermi, che i collaboratori, Rex Tillerson, il segretario di Stato, insomma, un manager che per 30 anni è stato numero uno in un mondo molto complicato come quello degli oilmen, che mischiano insieme politica, diplomazia e equilibrio, no? Io ho sperato che questo staff riuscisse a evitare i problemi evidenti nel tipo di personaggio. Adesso inizio ad avere dei forti dubbi, a dire la verità. Comunque, vedremo. Intanto grazie Udo Gumpel e buon lavoro. Noi ci torniamo qui tra un minuto. Della belva. Ed eccoci tornati qui per quest'ultima parte. Mario, hai sentito Udo Gumpel come durissimo nel giudizio? Tu che dici? Ma io sono abbastanza d'accordo. Credo che c'è sicuramente uno zoccolo duro di americani che vedono il mondo come lo vede Trump, con l'unica differenza che magari Trump è un po' più cosmopolita in quanto uomo d'affari, e invece l'America profonda, bianchi, settore manifatturiero, dipendenti da antidolorifici, come si definiscono, vedono altre cose. È una presidenza disastrosa, io questo lo dico dal primo giorno, sì, tu l'hai detto, penso che lo ricorderete, sì, è sì, una presidenza del tutto incapace di avanzare un'agenda, Trump mi sembra veramente una persona che ha fatica a controllare i propri impulsi, quindi si potrebbe fare anche una profilazione psicologica di uno che si comporta così. Ci saranno situazioni nelle quali gli elettori di Trump in alcuni stati, quelli più sofferenti, pagheranno con grandissima durezza la scelta di quest'uomo alla Casa Bianca. Ieri l'altro è uscito un post di Paul Krugman che dava conto proprio dell'esistenza di questi stati, di uno in particolare che sono talmente affilato. Sofferenti, adesso perderanno il Medicaid, perderanno tutte le coperture, l'Obamacare verrà affondato. Perché diceva, lo avete voluto voi quello stato, fatevi i conti. Saranno amabilmente cazzi loro, però il problema è, la democrazia americana è sufficientemente sana, ha sufficienti anticorpi per disinnescare quest'uomo? Vedi, però Mario, la mia domanda, questo è, io penso che a noi europei continua a sfuggire un dato di fondo, cioè il motivo per cui nei voti presidenziali, non nel voto popolare, ma insomma, alla fine ha prevalso Trump, deriva dal fatto che c'è un'America profonda che non si riconosceva nella somma dell'elite finanziaria e politica dei Clinton, e che era anche molto delusa dalla presidenza Obama, perché poi qui in Italia lo teniamo una settimana come la Madonna Pellegrina, però insomma, nel suo paese non è così. Allora, detto questo fenomeno noi continuiamo, secondo me, a non capirlo. È vero che Trump è un problema personale, si capisce da tutti i punti di vista. Io le due cose come si possono riunire è questo che non riesco a capire, perché non credo che quell'America abbia cambiato idea sul fatto che non vuole tornare all'elite a cui ha detto no, e dall'altra parte tenersi 4 anni di questa roba è... Però scusami, i democratici lo lasceranno rosolare a fuoco lento, perché i democratici vogliono arrivare al midterm, esatto, quindi a novembre 18, e fare una strage di seggi repubblicani. Sì, quindi almeno lì se lo tengono rosolandolo a fuoco lento. Ma rosolandolo però attaccando, cioè alzando di settimana in settimana il livello delle polemiche istituzionali, tanto da, voglio dire, arrivare a un limite per cui l'impeachment sembrerà quasi niente in confronto. Comunque, Oscar, il problema è che... D'accordo, la democrazia americana ha dei problemi perché è una democrazia imperiale, quasi monarchica ed ereditaria. Problema Clinton. Problema Clinton, io non sono Bush. Mai stato un tifoso, esatto, e anche Bush, mai stato un tifoso di Hillary, che mi irrita epidermicamente. Comunque Hillary ha preso 3 milioni di voti popolari più di Trump, quindi esatto. Anche il disegno di collegio in questa struttura federalista ha qualche disfunzionalità. Altro che. Però ripeto, il mondo è privo di una leadership. Qualcuno dirà che non ce l'aveva neppure negli 8 anni di Obama, ma un conto è avere una leadership, come dire, neghittosa, un conto è avere una anti-leadership che appena apre la bocca è imprevedibile. Questo è su cui obiettivamente è vero che Putin ride. Adesso io non sono putiniano, non ci posso fare niente. È vero che Erdogan, io nel vedere come gli hanno srotolato i tappeti sono rimasto senza parole. Comunque, solo per dire, cari ascoltatori, che stiamo in campana, per così dire. Senti, ma tra l'altro leggevo su Twitter che ha cancellato la conferenza stampa con la Merkel. Infatti questo era quello che stavamo dicendo prima con Udo. Devo dire che però anche l'Italia non ha fatto neanche i briefing con i giornalisti in quanto ospite di turno del G7, non abbiamo fatto una bella figura, ma questo noi non riusciamo a capire come si tengono davvero questi eventi internazionali, almeno con la stampa. Detto questo, Mario, ma tu che impressione ti sei fatta su questa storia dei voucher? Ma io volevo chiedere al professor Leonardi, ma lo chiedo anche a te, perché proprio parlandone internos, ieri mi ha colpito il fatto che Susanna Camusso, non mi ha sorpreso, mi ha colpito, Susanna Camusso ha detto: non c'è alcun vuoto normativo se non andiamo a reintrodurre uno strumento simile ai voucher, perché comunque esistono i contratti a termine. Ora, io sono un po' perplesso, non so tu, Oscar, pensi. Non è così, quella è una pura battaglia politico cosa. Chiunque abbia una qualche esperienza, voglio dire, di mercato lavoro, strumenti attuali, sa che il contratto a intermittenza se si vuole riferire a quello. Se poi si vuole riferire a un contratto a termine, no, è proprio fuori luogo. Lo so, ma sì, sì. Devo sempre pormi il problema se non sia giornalista a scrivere in un modo anche se l'ha detto in un altro. Io lo dico per scrupolo, perché nel senso che, la segretaria CGIL sa perfettamente che il contratto a termine non è il contratto a intermittenza del vecchio ordinamento, c'è nel nostro ordinamento addirittura dagli anni 20. Pensate un po', non va assolutamente bene per risolvere le questioni di cui sappiamo, dai dati accumulati dall'INPS in questi anni, sappiamo a chi servono, sappiamo chi ne abusava, sia pur senza generalizzare, ma dove era il sospetto. E il problema è che è diventata una questione politica tenerlo aperto, secondo me. Io credo molto che questo ci dica più delle scelte politiche dopo la carriera di segretaria della CGIL, della stessa segretaria CGIL. Non è un caso che oggi da alcuni giornali avanzino l'ipotesi di una sua candidatura. Del resto tutti i leader della CGIL alla fine si sono candidati in politica, non è Giannino che lo dice. La Camusso aveva escluso, ma l'avevano escluso tutti prima di lui, tutti quanti, nessuno escluso. E lei sta con le MDP, cioè da chi è uscito il PD, questo anche lo sappiamo. Quindi ecco perché il gruppo MDP ha incastonato tutta questa storia qua, secondo me impedendo di fare meglio la risposta al venir meno dei voucher, perché stanno trascinando governo e maggioranza del PD a coprire di limiti uno strumento che non deve essere privo di limiti e di controlli, ma neanche ingabbiato a standard troppo ristretti. Ecco, questa è la mia opinione secca. Renato, tu questa settimana hai avuto una bella esperienziella? No, io in questo periodo sto avendo delle buone esperienze. Noi di solito cerchiamo di tenerci lontani dalla burocrazia. Abbiamo avuto la folle idea di voler festeggiare i 50 anni dell'azienda. Ma chi lo fa fare? E stanno sbattendo il muso, cari ascoltatori, in una richiesta di permessi, verifiche. Volete festeggiare? No, però questa cosa qua mi sta unita a tutte le notizie della settimana, tipo TAR, non TAR, eccetera, eccetera, ma anche dal punto di vista aziendale. Mi sta facendo venire dei fortissimi dubbi su quello che è il giusto equilibrio fra la legge e i controlli e i fatti. Perché secondo me ormai siamo in una situazione in cui, a furia di cavilli, virgole, controlli, trovare il lavoro da fare a qualcuno, i soldi da raccogliere, perché non dimentichiamoci che ogni volta che vi trovano qualcosa che non è a posto, si raccoglie un po' di soldi. Siccome le tasse stanno scendendo perché si guadagna meno, ti dà accessorio di raccolta di foraggio, diciamo, per la bestia dello Stato. Esatto, non solo, ma poi quello viene messo dentro il recupero dell'evasione. Quindi ma lui si fa anche il suo MBO personale, eccetera, più ne porta a casa, è ovvio. E allora tutte queste cose qua mi portano a dire, ma cioè, ci stiamo ammazzando da soli. Qui sta diventando un paese dove è meglio non fare. Ma sai, quindi... la questione è, io non voglio attribuire nemmeno, dopo tanti anni che faccio le polemiche contro lo Stato ladro, non gli attribuisco neanche l'intenzionalità spesso di essere così. Il problema è che organizzare le procedure, cioè le verifiche a cui siete sottoposti, le richieste di firmare pezzi di carta, perché volete fare una roba che significa festeggiare l'anniversario della vostra azienda, è semplicemente concepita avendo in mente solo i tempi, le procedure e le modalità organizzative della PA. Non è concepita immaginando che cosa significa. Se io ti chiedo di aspettare 30 giorni la mia firma, ma tu se hai una velocità tale per cui 30 giorni per te è una velocità che non ti può interessare, è troppo lunga, la mia risposta alla PA è: ma chi se ne frega? Questo è il punto vero. Ma non è intenzionale. No, è no, peggio. È così. È morte per asfissia accidentale! Accidentaccio a loro! Ladri! Con questa equilibrata conclusione di Oscar Giannino, che non accomuna Mario Seminiero, che Alberto Carnavale Maffè, Renato Cifarelli, che sono persone molto più equilibrate, vi auguro buon ascolto su Radio 24. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte.